YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Allora, il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni. E questo è un noi augurio 25 di buon anno. Ne abbiamo. Beh, no, scusa, 20. Meno. 16, sì, non dai, lo so. Quando eri paninara, massimo... tipo. Vedo che hai ascoltato il sabato del villaggio, ho fatto questa confessione di questa mia infanzia, ero piccolina. Tu dimmi che uno deve iniziare il 2017 scoprendo che Marta Cagnola era paninara. Sì, le felpe di Best Company, quante erano belle le felpe, anche Filippo Auregi in regia era, ma forse paninara ma no, ancora ma figurati, Filippo Auregi. Ma figurati, lo dice solo sì, per sì, prenderti sì. In giro, ma guarda le scarpe. Ma le scarpe, anche le calze, guarda. Non dobbiamo fare, no, ma dai. Ma sì, sono... è ancora paninara. A parte lui. Che Filippo ci sta un po', ma te non lo so, vabbè. Devo fare un saluto però, che non sì, ho ancora facciamo. Fatto in ciao. Due ore del sabato del villaggio ringraziare Matteo Ramelli che ci sta dando mitico, una mano mitico e dire a Cristian Goldoni Cristian guarisci lo so. Io, guarda ti sono vicino con il mio raffreddore guarisci col tuo raffreddore sì va bene lo sapevo no ragazzi ho messo io anche ieri la foto. Ho visto Daniele hai messo la foto? Sì l'ho messa perché sui ieri ho social. Visto Daniele Bellasio ero salita un attimo ai piani alti e lo vedo dico ma Daniele ma vabbè, cosa hai fatto? Capita a tutti ha dato una testatona povero chi di noi non ha litigato con una mansarda? Ma tra l'altro certo. Io sono pensavo di essere basso ma sono un finto basso cioè quell'1,75 sì. Da italiano medio colpisce nella mansarda quindi la mansarda se la luce è spenta il tablet è sul comodino vai accidenti comunque vabbè. Abbiamo iniziato con questa bella frase di De Crescenzo che mi ha girato mia mamma via WhatsApp questo per dire salutiamola signora Bellasio in aereo. Ciao ciao mamma. Sai che abbiamo parlato di Monforte d'Alba, della sua città. Sì, lo so, grazie sì, a Paolini. Davide Paolini. Ma sì, fantastico. Sì, sì, sì. Poi dopo mi dici cosa... Sì, anche un consiglio che ci ha dato. Allora, questo era 32 dicembre, un film di qualche di anno fa, De Crescenzo. Sì, perché sì, abbiamo sì. Voluto iniziare il 2017 con un augurio di usare il tempo e la vita... Tra l'altro c'è anche una canzone dei tuoi Baustelle, certo. La vita, giusto? Bellissimo, sì, sì, stupendo. Bello sto disco. Ma stanno facendo un sacco di dischi. Lui è un po', si parla un po'. Ma lui è, sai cosa c'è? Sembra molto serio, molto sì. Io appunto gli dico crepuscolare. Poi invece però è sornione. Poi, c'ha qualcosa sornione. Di toscano. Sì, sì, sì. Un sì, sacco di piacciono. Dischi belli, dicevi, è sì, vero? Sì, sì, escono un sacco di dischi belli e poi ci sarà anche Sanremo, ma ne parliamo dopo. C'è Sanremo quest'anno? Sì. Ci sono solo i conduttori e gli ospiti, non ci sono i cantanti. Dopo? Dopo, va bene. Dopo. Invece partiamo con la polemica della settimana televisiva. La polemica televisiva della settimana che è passata per il web, perché sì. Fiorello ha fatto questo appello proprio via web. Mi rivolgo ad Antonio Campodall'Orto, a Pier Silvio Berlusconi, diciamo alle due reti generaliste, anche alla 7, a Urbano Cairo e chi per lui. A tutta la televisione generalista, va bene? Va bene. È possibile intervenire cari vertici di queste aziende ed eliminare una volta per tutte i casi che in modo che vengano trattati solo nelle sedi competenti che sono la magistratura, la polizia, i carabinieri e i telegiornali. Nel pomeriggio una volta si faceva il gossip, ci si sorrideva, si facevano i servizi sulla festa di qua, sulla festa di là, ma fatemi i servizi sul billionaire di Flavio Briatore piuttosto che del compleanno della D'Angelo, fatemi qualsiasi cosa il pomeriggio, parlate di libri, parlate di storia, parlate di qualsiasi cosa, ma non potete fare ore e ore e ore a parlare con notizie di particolari, di cronaca nera il pomeriggio. Vi prego, amici, cari vertici, basta, qui finisco. se ne è parlato molto, eh. Era la sua edicola fiore, che però in questo periodo lui fa comunque per passione, lo sappiamo, la fa sempre, sì sì, sul web. Io non sono d'accordissimo, nel senso che non è il concetto di fare la cronaca nera nel pomeriggio, è il concetto di allungare la cronaca nera facendola diventare una specie di film che tu vedi a puntate al posto di Beautiful durante le trasmissioni del pomeriggio. Sì, è diventato un po' un feuilleton, cioè, come se fosse la signora in giallo, ma non è la signora in giallo, sono cioè, cose se ci vere. Sono le notizie, o ci sono delle novità, o comunque vuoi fare un focus su una cosa, di un fatto, ok, lo fai, ma non è che puoi dilatare questi talk show parlando poi con gente del tutto così che arriva e fa delle sue ipotesi per la soluzione dei casi, ma sì, non so, a ecco, me quello non diventa piace quando fanno, lo diceva anche Fiorello, ci colleghiamo con la casa degli orrori, la casa, ma perché? La strada, quello è eccessivo. Dopodiché non è che puoi dire vabbè, in di pomeriggio quindi basta cronaca nera, non è quello, basta il foglietton della cronaca nera. Devo dire che però tutto sommato meglio basta cronaca, però l'ha detto Fiorello, guarda, Fiorello l'ha detto sono, e qualcuno avrà risposto. No, diciamo che su questo non c'è stata ancora la risposta. C'è stata invece una risposta su un'altra delle polemiche della settimana. Cioè? Una delle protagoniste. Lui non ha voluto fare nomi, non ha voluto fare, però insomma i riferimenti erano chiari. Tra quelli che fanno questa cronaca del pomeriggio c'è Barbara D'Urso. Sì. Barbara D'Urso questa settimana aveva ospitato la ragazza e la famiglia protagonista di un fatto di cronaca molto brutto, insomma l'ennesimo caso di violenza su una donna. A un certo punto esce una frase che viene molto criticata, viene condannata duramente dai social, una polemica tremenda, e Barbara D'Urso poi ha spiegato così. Allora, io leggo sui social che gira una frase che mi viene attribuita, una frase che è stata completamente decontestualizzata da un'intervista di mezz'ora. La frase è che gli uomini diventano aggressivi per troppo amore. Naturalmente io stavo cercando disperatamente, come avrete capito, di convincere la ragazza che è innamorata di questo ragazzo che gli uomini, quando a volte purtroppo a volte l'amore può degenerare e trasformare un uomo innamorato in uno schifoso criminale, una bestia che va punita e va curata. Questo io dico da 9 anni, chi mi segue lo sa molto bene, quel timbro "chi ti picchia non ti ama" è una frase che da 9 anni io dico tutti i giorni qui in diretta, e nessuno deve permettersi di pensare che io sono contro le donne. Io sono contro la violenza sulle donne, da sempre. Quello non è amore, quello non è amore, quelli non sono uomini. Come la commenti, Daniele? Che pensare che Barbara D'Urso potesse essere contro le donne è una cosa assurda, certo. E le cosiddette rivolte dei social hanno spesso molto di irrazionale, fra poco mi sa anche di questo parliamo. Sì. Però eviterei i toni da proclami, anche lì non si possono dire le stesse cose con gli stessi argomenti in un modo meno da comizio. Cioè la televisione sta diventando un posto dove chiunque deve fare un comizio, anche la rete, sì, ma la rete almeno contiene anche tutto il resto, la televisione invece è selettiva. Cioè sulle televisioni generaliste, in questa ragione Fiorello, c'è una qualche responsabilità in più. Finirci non è una cosa semplice, è una cosa che in qualche modo dovresti meritarti, e se ci sei dovresti dire delle cose anche ponderate, perché le stai dicendo a tutti. A volte questa idea che sia un immenso Hyde Park Corner collettivo, secondo me, fa dei danni. Sì, poi secondo me non è che si deve proprio ospitare tutti. Esatto, anche questo bisognerebbe un po' meritarselo. E ecco, diciamo, sulla domenica pomeriggio, diciamo, fa un po' fatica accendere la TV generalista, no? Personalmente io faccio fatica. A me tante cose divertono, piacciono, ma quelle lievi. Io sulla ecco, cronaca, esatto, io sono più con Fiorello. Non sono più con Fiorello, anche se invece Giuseppe Cruciani, ieri l'ho sentito un pezzettino mentre ero in auto, stavo andando al cinema. Beh, perché ieri lui sera è per la commissione dei generi, e quindi invece a volte ne nascono pro Fiorello. dipende se non lo fai in modo che si capisce che tu stai mestando nel torbido, che stai allungando il brodo perché ti serve per l'audience. È come dicevamo il blocco sulla riforma delle pensioni che sta in tutti i talk show, di pomeriggio devi fare il blocco cronaca nera, sì. E a volte il blocco cronaca nera non c'è, e se tu te lo inventi sei costretto o a straurlare o a dire cose eccessive o a chiamare un'anziana subrette in pensione per dire cosa ne pensa e secondo lei chi è il colpevole. Stai pensando a qualcuno in particolare o in generale? No, hai ragione. No, infatti la subretto oppure la giornalista oppure, che magari per la prima volta sente parlare di un fatto lì. Sì. A me piace per esempio nella mentalità anglosassone quando rispondono non ne ho la minima idea, non ho seguito nulla di questo, vero, non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire. E certo, il giornalista sempre qualcosa da dire su tutto. Io e te, dici? No, in generale, noi siamo... Quando fai più cose assieme mi metti ansia. No, faccio più cose assieme, guardi anche i messaggi. Guardi social, l'orario, Filippo, dimmi. Ma sì, perché guardo l'orario, perché adesso dobbiamo dare il traffico, sì. Perché sono le 17:15. Guardo i social, no, stavo guardando i WhatsApp perché qualcuno ci chiedeva cosa diciamo allora di Bello Figo, quello non era per fare ascolti. Di Bello Figo abbiamo già parlato. Abbiamo parlato, era per fare ascolti, ma fare ascolti di per sé non è negativo. Bisogna vedere quale evento di Bello Figo, ce ne sono stati parecchi, no? Sì, io ormai ho perso il conto. Allora, facciamo una cosa, 17:15 sì, e 32 secondi, traffico. Poi parliamo poi di una boiata pazzesca, sì. Di una cosa che non esiste. Oddio, secondo me qualcuno si arrabbia perché pensa che esista. Vabbè, a dopo, tra poco. Radio Tube. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. I don't have people speaking in my ear and telling me like, oh, you shouldn't say this, you shouldn't say that. All of these different people. I don't have lobbyists with me. I know the lobbyists. I mean, I've used the lobbyists. Allora, io ho gli elettori più straordinari del mondo. Ancora non era presidente. Donald Trump diceva... posso dire qualunque cosa, la sua becca raccontare tutti i segreti, perché gli ascoltatori lo sentono e diranno no, che avevo cosa schiacciato succede? Il pulsante povero e si sente dal mio povero che poi stasera vai allo stadio, sì, certo, ti copriti bene. Allora diceva Donald Trump, diceva che io ho gli elettori più leali possibili, io potrei per esempio andare a Fifth Avenue, sparare a qualcuno e non perdo nessun voto, io non amo le persone che mi dicono devi dire questo, non devi dire quest'altro, io devo dire quello che mi pare, insomma si dà la colpa anche a Donald Trump di una cosa che ha un nome per me assurdo, la post-verità, no? A un Donald certo Trump... punto io ho cominciato a vedere sui social e sui giornali, sembrava la parola d'ordine del momento, la post-verità. Che è una boiata pazzesca, cioè è un modo per dire che esistono le bugie, non saprei come bella questa spiega. Definizione. Ci sono le bugie, tocca e scoperta, e abbiamo dato la colpa a Donald Trump che i politici per essere eletti a volte dicono delle bugie. Dai, ma guarda che strano, perché poi noi proprio in Italia non ne avevamo mai avuto uno, No. Tutti che erano proprio nella verità assoluta. Allora, su questo tema della post-verità, io pensavo che non ci fosse niente da dire, perché mi sembrava veramente una boiata pazzesca. Poi invece io ti ho mandato una mail dicendo vorrei parlare di post-verità. Sì. E io ti ho detto che la persona che ne aveva scritto meglio, la cosa non mi stupiva perché ha scritto un libro anche su notizie che non le erano, che un po' c'entra con questa cosa, era stato il direttore del Post, Luca Sofri, che dovremmo avere al telefono. Ce l'abbiamo. Direttore, Luca. Ciao Luca. Ciao a voi, buonasera. Eccolo qua. Allora, intanto sei d'accordo con Daniele che post verità uguale bugia, allora perché ne parliamo? No, per niente. Lui peraltro lo sa, sta recitando tutto un copione radiofonico in modo che io possa dire appunto che la sua definizione di boiata pazzesca è a sua volta una boiata pazzesca. Touché. Perché quella, diciamo, di cui ha parlato Daniele è un'interpretazione molto sommaria e equivoca del concetto di post-verità che sta girando. Cioè non è vero che post-verità è usato come sinonimo di bugia o del fatto che esistano delle bugie, ma è usato, e questo è discutibile a sua volta, ma basta che ci capiamo su di cosa stiamo parlando, ma è usato per sostenere, diciamo, per definire non le bugie ma un periodo, un tempo, una cultura come quella attuale in cui la differenza fra verità e bugie non è nemmeno in linea di principio così rilevante, più rilevante, e non c'è più un valore maggiore della verità rispetto alle bugie, almeno in linea teorica, e quindi eventualmente dire delle bugie, come si sono sempre dette, hanno sempre detto i politici, hanno sempre detto i giornali, non è più una cosa riprovevole o che una volta svelata venga pagata e costi qualcosa. Quindi la bugia che vale quanto la verità. Esatto, e soprattutto lo svelamento della bugia che non è più un problema e non è più un rischio per chi ha detto la bugia, che questo sia un politico o che questo sia un giornale. Cioè il fatto che tutti noi ormai del fatto che qualcuno dica le bugie ce ne freghiamo e lo votiamo lo stesso, oppure leggiamo lo stesso i suoi articoli o sosteniamo lo stesso appunto le cose che ha detto, benché sia stato svelato che quella era una bugia. Ecco, però Luca, di questo fenomeno si dà la colpa alla rete. Ora, io dico che la post-verità è una boiata pazzesca collegata alla rete perché penso che la rete sia lo strumento migliore per svelare le non verità. Io non ho mai visto strumento così efficace nello smontare una bufala come la rete. Guarda, in parte è vero, diciamo, era la cosa che io sostenevo e sostengo tuttora nel libro che tu hai gentilmente citato, cioè sul fatto che appunto che le bugie e le false notizie messe in giro soprattutto dando le grande autorevolezza dalle testate giornalistiche tradizionali, oggi vengono svelate molto più facilmente dalla rete. Però diciamo c'è una responsabilità della rete indiretta nella cosa di cui stavamo parlando, nel senso che, come tutti sappiamo, la rete ha dato a tutti noi, chiunque siamo, la sensazione, anche il privilegio in alcuni casi, che qualunque cosa noi diciamo abbia il valore di quella che dice chiunque altro. Cioè ci ha dato degli spazi e un'abitudine ogni giorno a condividere e sostenere, diciamo, opinioni assolutamente infondate, assolutamente non argomentate di chiunque di noi e contrapporle a quelle vere, reali, argomentate, eccetera, eccetera. Quindi il problema con la rete non è tanto che mette in circolazione delle bugie, perché come dici tu giustamente permette anche la rete di svelarle, ma è comunque di aver abbassato molto il livello della differenza fra le competenze, i fatti veri, le argomentazioni e le ragioni, e invece il non averle, e in questo senso ha creato la cultura di cui stiamo parlando. Allora io vorrei affrontare un altro tema in merito di verità e post verità e non verità e bugie, chissà. Pre-verità, come ha titolato l'articolo allora, su Wittgenstein. Allora qualcuno si arrabbierà, quindi preparatevi ad arrabbiarvi Vabbè. Con noi, perché è un tema molto molto molto sentito. La storia dell'umanità è costellata di guerre e soprusi di ogni genere, perpetrati da nazioni e da caste, che per brama di potere hanno spesso scatenato l'inferno ed hanno invaso altri paesi, spesso con l'avallo delle Nazioni Unite. Oggi però i militari e i governi hanno fatto un salto di qualità, concretizzando un antico desiderio: dominare i fenomeni naturali ed usare questo potere come arma, come mezzo di controllo di altri popoli e stati. Questa nuova tecnologia si palesa ora nei nostri cieli, con quelle che ormai molti cittadini conoscono come scie chimiche, espressione derivata dall'inglese chemtrails, in italiano reso con scie chimiche. Allora, questo è un estratto da un documentario online di Rosario Marcianò, che è uno dei maggiori esponenti dei sostenitori dell'esistenza di chemtrails, scie chimiche. Nel suo pezzo Luca Sofri dice che c'è una particolarità tutta italiana sulla questione, diciamo, legata al dibattito sulla post-verità. Luca, ci spieghi che cosa intendi? Guarda, intendo una cosa che è fatta di diversi fattori, ne dirò soltanto i due principali, ma capiamoci sul fatto che sto un po' semplificando perché siamo in radio e non possiamo farla troppo lunga. I due fattori principali sono questi: da una parte l'esistenza di un partito in Italia che è il Movimento 5 Stelle, che ha fondato grandissima parte della sua comunicazione sulla diffusione di una serie di balle completamente palesi e spettacolari. Si potrà dire che tutti i politici hanno sempre, diciamo, mentito, ma hanno mentito dicendo cose abbastanza più che altro nascondendo cose, diciamo, più che mentendo, e poi soprattutto stando molto attenti a che le loro bugie non venissero svelate. Quando sono state svelate, questo ha costituito un problema. Nel caso del Movimento 5 Stelle invece no, il Movimento 5 Stelle tende a raccontare delle cose il cui svelamento è a sua volta inserito nella comunicazione bugiarda, cioè qualunque, siano le scie chimiche, siano i microchip sotto pelle, o siano un sacco di altre cose. Oggi ho trovato fantastico che sul blog di Beppe Grillo comparisse un post sul Monte dei Paschi in cui venivano additati come principali responsabili da perseguire coloro che possiedono delle barche e delle ville costose. Sul blog di Beppe Grillo mi sembrava interessante questa formulazione. Quello che voglio dire è, diciamo, che in questa comunicazione lo svelamento della bugia viene indicato come a sua volta una appartenenza allo stesso complotto, no? Che la bugia sta in qualche modo sostenendo. Quindi se tu dici non esistono le scie chimiche, e se tu lo dici anche essendo il maggiore scienziato, il più autorevole scienziato del mondo, come ha detto il medico in questo periodo, Roberto Burioni, che dice: io non posso mettermi da medico a dibattere sull'utilità dei vaccini quando io sono un medico, sì, e gli altri no. Ma soprattutto, anche se ti ci metti da medico a dibattere sull'utilità dei vaccini, eccetera, eccetera, troverai gente che ti dice non: ah vabbè, se lo dice il medico forse è vero, ma ti dice: allora tu fai parte dello stesso complotto. Che tu... Tutto questo ha a che fare con una serie di meccanismi psicologici molto semplici su cui questa comunicazione, non solo del Movimento 5 Stelle ma di molti altri in giro per il mondo, lavora. Cioè sul fatto che l'affermazione di noi stessi trae molta linfa dal poter dire io so delle cose, la so più lunga di te, no? E dal sostenere che siamo vittime di un qualche complotto, di un qualche potere che ci sta ingannando. E se voi, diciamo, volete farvi notare su Facebook, se scrivete guardate che le cose stanno esattamente così come ce le hanno raccontate e sono così chiare e limpide, non vi dà retta nessuno, non vi si fila nessuno. Appena dite guardate che gli asini volano e ce lo stanno nascondendo, questo improvvisamente vi dà una grande attenzione, una grande visibilità, no? Figuriamoci poi se poi potete dire gli asini volano, diciamo, perché c'è un grande potere nascosto che gli fa da, volare, appunto, il grande asino, eccetera eccetera. No, ma è vero, diciamo, dirle grosse ha sempre costituito ormai da molti anni, no? Non più una liability, come dicono gli americani, non più uno strano o uno, appunto, che le sta dicendo troppo grosse. Più le dici grosse e più ottieni attenzione, più ottieni consensi e più ottieni lettori, nel caso dei giornali che usano delle titolazioni enfatiche e terroristiche, e più ottieni voti nel caso di partiti o movimenti che sostengono, appunto, che ve le stanno raccontando, le dicono grossissime. Questo è un pezzo della peculiarità italiana. L'altro pezzo è un'informazione giornalistica tradizionale che, rispetto a queste cose, si dimostra in periodi di grossa crisi per il business dell'informazione completamente succube. Certo. E quindi appena, diciamo, Beppe Grillo sul suo post ne scrive una grossissima, nelle ultime settimane ne ha scritte 15 grossissime una dopo l'altra ogni giorno su un argomento diverso, no? La reazione dell'informazione professionale italiana non è né di esporre delle obiezioni argomentate, oppure lo è ma in una misura minore, né di snobbarlo, perché siamo a quella detta grossissima del lunedì e ieri c'era quella grossissima da domenica, eccetera, ma è di dare a quella grossissima tantissimo spazio, no? E fare addirittura degli speciali, 4 pagine. E non la mette a caso, c'ha ragione Invitare, diciamo, l'esperto al dibattito, eccetera, tutto quanto, perché questo paga in termini di attenzione l'informazione e i giornali, no? E in tempi di crisi di lettori, modelli di ricavi, eccetera eccetera, i giornali e i telegiornali, i talk show televisivi, eccetera eccetera, si sono attaccati negli ultimi anni tantissimo, no? C'è stato un grosso dibattito sul fatto che fosse completamente una balla che il successo di Beppe Grillo fosse basato sulla comunicazione sull'uso di internet. È stato basato tantissimo sull'uso dei media tradizionali e tantissimo spazio che i media tradizionali hanno dato a un comico, peraltro spiritoso in molti casi, e quindi anche spettacolarmente molto efficace, a un comico, diciamo, che aveva creato un partito era diventato un esponente politico. Buffoni, questo cretino non doveva parlare della post-verità, perché parla solo dei 5 Stelle? Lo sapevo che non si può parlare di questi argomenti. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare che il Movimento 5 Stelle ha anche inventato, dopo dico chi perché non ritrovo sui social, il post-congiuntivo, c'è un problema anche sui... No, dai, adesso sì, ragazzi. No, ecco, esatto. No, perché adesso facciamo devo stare qua a ricevere tutti i messaggi con scritto buffoni e cretini. Poi io spesso li difendo anche, passo pure per difendere. Grazie Luca Sofri. Grazie Luca. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro, grazie mille. Allora, devo lanciare la pausa con questo messaggio di Mauro da Bologna che mi piace tantissimo. Fallo. Altro che scie chimiche, lo sapevate che il mondo è piatto? Radio Tube. Beh, tanti messaggi perché abbiamo un po' sfruculiato gli umori con questa cosa della post-verità. Ti è venuto in mente chi aveva... No, ho controllato, ho visto, era Francesco Cundari, che salutiamo. Francesco, ciao Francesco, il post-congiuntivo è suo copyright. Non abbiamo detto invece i nostri, et Marta Cagnola, et di Bellasio, la diciannovesima certo. puntata di Radio Tube. Al mondo per libertà di stampa, io sì, non credo sì, a queste no, classifiche. Non lo so, basta, quelle ciao, classifiche cambiamo come argomento i 10 più belli, no. i 5 allora, più cambiamo argomento cambiamo perché argomento. C'è Daniele Bellasio che mi guarda come per dire, tranquillizzati, non arrabbiarti. Perché? Ma io poi mi arrabbio su queste cose, mi infervoro perché io non ne faccio una questione politica, io stavo parlando di informazione e che cavolo. Calma, è che abbiamo detto che non si fanno proclami. Parliamo di televisione, del fenomeno del momento, perché è bellissimo. A me è piaciuto allora, tantissimo, allora io ho detto visto parliamo con di televisione e Daniele voleva parlare di un programma. Sì. Di un programma che all'apparenza dovrebbe essere assurdo. Si chiama Il Collegio. Allora facciamo una cosa, lanciamo subito una clip, così sentiamo qualcosa. La clip. Sono cresciuti tra internet, cellulari e videogiochi. Ora 18 adolescenti stanno per affrontare un'esperienza fuori dal comune. Tornare indietro nel tempo e vivere in un collegio del 1960. L'obiettivo, ottenere la licenza media dei loro nonni. Seduti. Due epoche a confronto per un'operazione senza precedenti. In questo esperimento un esigente corpo docente. Io sono un insegnante, lei è un alunno. Due sorveglianti inflessibili. Via zitto! Sarete puniti. E un severo preside. Lei è nel mio mirino. Si lanceranno in un'epica impresa. Forza, uno. Silenzio. Due. Infondere il rigore degli anni 60 a 18 ragazzi nati nel nuovo millennio. No, non ci posso credere, questi sono pazzi. Veglia! Allora, Il Collegio, Rai 2, prima serata, hai detto che l'hai visto con tuo figlio. Sì, e sai che un sacco di padri che stanno un po' facendo più questo. Piccino, sì, del no, molto lui è piccolo, 8-9 anni, però comunque un sacco non di sbagliare, padri. Sbagliare, che già no, è successo. Sì, esatto. Qualcuno non dirlo, ha sbagliato. Non dirlo. Allora, ciao zio Jerry. Dicevo che no, un sacco di padri lo stanno facendo vedere intanto per dire visto cosa succedeva un tempo. Però in realtà questa cosa che sembra assurda, cioè prendere dei ragazzi di oggi e portarli a vivere in una scuola con le regole degli anni 60. Racconto una cosa che molti nostri genitori hanno fatto. Per esempio mia mamma ha fatto il collegio, mi ha spesso raccontato il collegio. Quindi in realtà si racconta una cosa del passato con gli strumenti di oggi, cioè il reality, ai ragazzi di oggi. Quindi è, secondo me, un tentativo buonissimo di mettere assieme una generazione che la televisione tradizionale non la guarda quasi più, che non sa che iniziano le trasmissioni a un orario, e in un mondo, quello della scuola, che è il loro mondo. Ma andiamo un po' alla nascita di questo collegio, cerchiamo un po' di capire come è nato, come è nata l'idea. Sì. Abbiamo in linea l'AD di Magnolia, che è la casa di produttrice, una delle case produttrici più note e più importanti che lavorano in Italia, Leonardo Pasquinelli. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera, come state? Tutto bene, dai. Vivaci oggi, mi sono appena arrabbiata, infervorata. Poi gli ascoltatori si stupiscono quando io mi infervoro. È l'unico, l'unico che non si stupisce quando mi arrabbio così è Bellasio. Perché lo sa assisto che io alle arrabbiature quelle fuori onda. Quindi. Perché io sono un po' così, sono un po' fumantina. Ma parliamo quindi di come è nato. Avete bisogno di un collegio anche sì, voi? Avete io un po' di... sì a volte. Come è nato? Come è nato? Allora, il programma è tratto da un formato inglese che certo. Poi è stato fatto all'inizio degli anni 2000, 2004, 2005, 2006, sia in Inghilterra che in Francia, forse anche in Spagna. Sì, qualcuno scriveva che l'aveva visto, qualcuno nella mia timeline di Twitter, che l'aveva visto in Spagna qualche annetto fa. Sì, può essere che sia stato fatto anche in Spagna. Questo formato è stato... i diritti del formato li ha avuti in un primo momento a Endemol, dove peraltro lavora, ai tempi in cui peraltro ci lavoravo, e poi li ha avuti in Magnolia, dopodiché nessuno lo voleva e quindi il formato è tornato ai detentori, che è una società francese. Quando Ilaria dalla Tana è diventata direttrice di Rai 2, siccome a questo formato c'era molto affezionata e sapeva che aveva un valore soprattutto per il servizio pubblico, ha preso i diritti e ha deciso di farlo. Dopodiché c'è stata una gara pubblica, perché se il formato è detenuto dalla RAI si deve andare per gara, e l'abbiamo vinta, e c'erano altri tre competitor allo stesso tavolo, i più grossi, insomma, le altre società di produzione, diciamo, grosse italiane. Abbiamo vinto noi perché i nostri ragazzi hanno fatto un progetto molto bello, molto dettagliato, molto curato anche in tutto quello che sarebbero poi diventate le ricostruzioni storiche, eccetera. Anche la decisione del periodo, anche il suggerimento del 1960 come data precisa per fare questa prima serie è stata una nostra proposta. Dopodiché, appunto, abbiamo vinto e abbiamo cominciato a lavorare alacremente per farlo, perché comunque, come al solito, poi siamo partiti in grande ritardo, corri, abbiamo girato ad agosto, perché dobbiamo girare un programma del genere con i ragazzi in vacanza, certo. Quindi è stato fatto in 20 giorni tra metà agosto e inizio di settembre, prima che tornassero alla scuola vera. E poi è stato montato bene, in modo veramente eccezionale, dai nostri montatori, è una cosa un po' che contraddistingue lo stile Magnolia, la capacità del racconto molto serrato, molto emozionante o divertente, certo. Al montaggio, sì. Quindi diciamo che alla fine è venuto molto bene, e però onore al merito, Ilaria, questo programma ce l'ha nel cuore da anni, e quindi una bella scelta di una direzione di rete moderna, che contemporanea, che fa bene il suo lavoro. Ecco. Sì, abbiamo visto tanti bei prodotti su Rai 2 in questo periodo. Sta ricompattando di fronte al televisore quello che stavate dicendo prima. Sta ricompattando di fronte al televisore giovanissimi e anche genitori adulti, però genitori con anche fasce un po' più adulte, però con la voglia di essere giovani dentro, come Daniele, no? Sì, dentro. Senti, Leonardo, ma quanto è difficile pensare a trasmissioni televisive, a prodotti televisivi per la televisione tradizionale, nel momento in cui, come si diceva prima, la televisione sembra esplodere nei palinsesti personali, nei social network, YouTube, tutte queste cose qua? Come ci si barcamena, o come ci Guarda, si può scommettere? Secondo me dobbiamo avere coraggio, non dobbiamo neanche cadere nel dire che i ragazzi non vedono più la TV. Non è vero, i ragazzi, se c'è le fasce più giovani, anche le fasce più aperte, più disponibili all'innovazione, guardano anche la TV. Chiaramente non guardano più solo la TV, guardano tutti i contenuti ovunque li trovino, ma anche in TV. E poi oramai, quando fai un prodotto di qualsiasi tipo, anche che abbia come prima destinazione la televisione, comunque c'è sicuramente un'attività social, c'è comunque sicuramente un'attività web che compone l'offerta, no? Il collegio è su Twitter e sui social. Ecco, però a questo proposito, girato ad agosto, quindi poi montato successivamente, ma nel momento in cui c'è la possibilità di interagire sui social anche nella confezione della trasmissione, danno degli input o è già tutto montato ed è intoccabile? No, è già montato, onestamente. In questo caso, così come nel caso di Pechino Express, che è un altro programma di questo tipo, diciamo più largo come target, però i super social, peraltro, però esatto, sono programmi chiusi, sono dei film, sono delle piccole serie, sono delle serie con dei racconti già ben definiti, però l'attività social nonostante questo è pazzesca, perché evidentemente si toccano degli argomenti, si toccano dei temi che coinvolgono comunque gli spettatori. Per cui non è detto che l'attività web e social laterale alla produzione, all'offerta TV, sia necessariamente collegata a un programma in diretta. Fino a qualche anno fa pensavamo, se non sono in diretta non riesco a coinvolgere più di tanto le persone. No, si coinvolgono, anche se il racconto è bello, si coinvolgono comunque. È come una seconda vita della trasmissione virtuale, a prescindere dalla prima. Infatti lo chiamiamo second screen, esatto, no? Esatto. Lo chiamiamo second screen, e sul second screen si approfondisce, si discute quello che sta accadendo, si ride, si prende in giro. Si contesta anche, c'è stata anche una piccolissima polemica, i ragazzi erano tutti aspiranti attori, quindi questo però è un po' il sale, immagino, tanto ma sì, vabbè, che poi quando si fanno le selezioni si presentino persone che abbiano voglia di andare in TV, non c'è dubbio. Vabbè, tra l'altro la resa è davvero, sembra cinematografica, no? Sembra di vedere ogni tanto lo sceneggiato di Cuore di tanti anni fa della Rai. Immagino che questo sia un po' voluto, visto che va su Rai 2. Certo, assolutamente. Poi abbiamo anche messo degli inserimenti con le tech Rai, proprio per dare il senso di operazione, anche che ricordi in qualche modo un periodo della nostra storia, che peraltro mi vedeva già protagonista. Sì, bambino. Devo dire che io sono stata... Ma cos'è la puntata sull'età questa? Avevo 6 anni però. Esatto. Avevo 6 anni, calma. Devo dire, ottima la scelta di Magalli, a me è piaciuta. Grandissimo Magalli. Questo è stato il guizzo, questo è davvero il guizzo. Sì, che lì era già adulto, aveva già una certa età. Ma poco, dai, ma poco, povero Magalli, poco. Poi il volto di Rai 2, una che buona cattive, parola toscanaccio, per tutti. Pasquini. Allora, questa cosa, vabbè, Magalli sarebbe, se fosse in linea, sarebbe più cattivo, per cui... sì, guarda, lo chiamiamo la prossima puntata e gli chiediamo cosa pensi di Pasquini. Questo periodo Magalli non sta parlando male di nessuno, quindi... Ah sì, è vero, sì. Ma guarda che già da un po' è 2-3 anni è in un periodo di bontà, molto bene, e tutto questo mi spinge a dire a Leonardo Pasquinelli che lo rivorremmo a RadioTube, anche perché piacerebbe fare prossimo anche progetto. Delle considerazioni anche un po' più generali su dove stiamo andando su questa TV. Molto volentieri, molto grazie. Volentieri. Grazie, prego, grazie a Leonardo Pasquinelli. Magnolia, bello sto collegio, io andrò. Allora, dopo il traffico parleremo di nulla, Sanremo, non c'è niente, hanno abolito il Festival della Canzone, ci sono 2 superconduttori e 3 superospiti. Guarda, si è talmente agitato e ha detto, non ci sono i cantanti. E ha detto una bestialità tale per cui stiamo dando in ritardo la linea al traffico. Bene, mi scuso col collega o la collega che è lì che sta aspettando. Tra poco ancora RadioTube. RadioTube. YouTube. Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai di me. Sanremo ci accoglie sempre a braccia aperte e sono sicuro che apprezzerà anche questo calore dei sanremesi, tutta Sanremo, anche colei che è al mio fianco quest'anno, Maria De Filippi. Ciao Maria. Grazie. Tu riderai di me. Io penso che la mia presenza al festival non cambi nulla al festival, sinceramente. Penso che cambi qualcosa a me, perché faccio una cosa che non rifarò mai forse nella vita e che mai avrei pensato di fare. Non penso che cambi nulla al festival, perché con gli ascolti che ha il festival non ha certo bisogno di qualcuno di Mediaset per incrementare gli ascolti. Però c'è anche da dire che chi fa il mio mestiere si deve prendere anche questi rischi, questi salti nel buio, togliere queste curiosità, soprattutto se ti chiamano a fare una cosa così bella, no? Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te. Sì, è bello. Io spesso faccio una similitudine, che nella settimana di Sanremo, comunque intorno a Sanremo, se tu fai uno starnuto hai la broncopolmonite, e quindi mi fa molto ridere questa cosa che viene amplificato tutto, perché è come quando gioca la nazionale, in quella settimana diventiamo, quando gioca la, siamo tutti commissari tecnici della nazionale, tutti abbiamo qualcosa da dire, e ora è bellissimo anche il poter commentare, cinguettare, no, in tempo reale quello che un tempo magari si faceva il giorno dopo nel bar sotto casa. Deve sapere proteggersi. La verità, caro Daniele, è che a te mancano gli stadio questo Sanremo. Ti mancano un po' gli stadio. Questa era musica. Mazza che regia, però, che è entrata dal blocco. Roba, eh? Super Filippo. Allora, abbiamo sentito l'ingresso, sì, in conferenza stampa, sì, l'altro giorno di Maria De Filippi. Sì. Cioè, ormai non era più una sorpresa, perché indiscrezioni di stampa, Repubblica, giornale, poi chi, insomma, alla fine... Gli piace vincere facile. Ecco. A Carlo Conti piace vincere facile. Allora, parliamone, ha fatto un Sanremo di grandissimo successo. Certo. Poi ha fatto un Sanremo di grandissimissimo successo. E cosa deve fare al terzo Sanremo? Però non abolire i cantanti, cioè... Ma questa cosa dell'abolire i cantanti... Ma scusami, ma... Cioè, Paola Turci e Ron, e poi? Vabbè, Michele Zarrillo. Fiorella Mannoia, Albano... Michele Zarrillo, che a te piace tantissimo? No, adesso non dire così, no, che piace, mi sta molto simpatico. Samuel, conoscevo... dei Subsonica, Samuel. Samuel non lo conosco, dei Subsonica, i Subsonica sì. Cioè, ho la sensazione che, vabbè... Marco Masini, ma no, ma sì, proprio... Ma, cioè, hai capito che cosa sto dicendo? Non ci sono le superstar della canzone. Ma perché tu, o perché i cantanti, non ci sono quelli che piacciono ci a sono... te? No, questi qua non sono. Io voglio dire che ci sono le superstar della TV, Conti e De Filippi. È come dire, come far giocare Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra. Te piace vincere facile. Ma lui doveva fare il terzo Sanremo, ragazzi. Qua il terzo Sanremo. Ho capito. Deve essere... Allora, se è difficile, se hai ansia di. Poi mi hai detto che sugli ospiti invece i cantanti tra gli ospiti li hai invitati. Ma, no, ma guarda, sei vero. Cioè... Sai che sei proprio. Chi sono gli ospiti? Giorgia c'è? Sì, c'è Giorgia. Vedi? C'è. Chi c'è? Zucchero non si sa, mistero. No, non ancora. Poi abbiamo Tiziano Ferro. Ecco, i cantanti li ha invitati come ospiti. Sarai contento che c'è Mica? Certo, anche lì grande successo televisivo. Poi c'è grande... Rag & Bone. Chi è? Rag & Bone. Non lo so, non lo conosco. Dai. Non lo devo I'm chiedere. Only human after all, la canzone del momento. Non la conosco, mi dispiace, chiedo scusa. Quindi vedi che le critiche che ho fatto finora ai cantanti, cosa ho fatto? Sto facendo un cenno a Filippo, non ti preoccupare. No, sto dimmi. Facendo un cenno a Filippo, che gli ho messo in cartella una canzone. Ah, in diretta. In diretta, sì, perché io faccio questa tre cose insieme. Questa qua di, come si dice? Rag & Bone, non lo so. Cosa hai messo? No, sentiamo. Vabbè, una cosa per sentiamolo allora. Ma no, un divertissement poi per chiudere, un divertissement. Ah, quindi fuori, lo dobbiamo twittare, non lo dobbiamo dire. No, un divertissement. Allora, ma non le puoi canzoni dire che... quando le senti? Io venerdì mattina. Quindi ti accorgerai, tu entri in una stanza, ci sarà un silenzio pazzesco. Le canzoni di Sanremo, non contano più le canzoni. Questo che, cioè, una volta c'era Domenico Modugno a Sanremo, 1958. Capito? L'anno scorso c'era Patti Bravo. Allora, sai qual è il mio principio? Sì, dimmi. Il principio è che la qualità musicale di Sanremo è... retroattiva, cioè te ne accorgi dopo perché sono le canzoni che ti rimangono alla memoria, come che quando non lasci mai... la ragazza e ti penti dopo. Non lo so, a me non è mai capitato, io l'ho sempre fatto e sono sempre con stata le ragazze, ben... ma con i ragazzi. No, sempre stata ben contenta. Comunque nulla, io invece quindi sono... per apprezzare i cantanti di quest'anno aspettate il 2019 forse vi accorgerete un po' che un po' sì, no, a me già piacciono adesso, però devo dire che tra le varie cose che sono state state annunciate in questa conferenza stampa, che è stata veramente bellissima, nel senso che vedi che dai ragione a me. Veniamo deportati tutti a Sanremo con gioia, ma insomma io l'11 dicembre ero a Sanremo, sì. L'11 gennaio a Sanremo, l'11 febbraio sarò a Sanremo, essere. Datemi qualcosa a fare l'11 marzo, perché sennò ci sarà vado Tenco. In crisi. Non c'è il Club Tenco? No, è ottobre. Ah, quello è ottobre. 11 ottobre, immagino, 11 perché non sappiamo. Tra l'altro quest'anno sono i 50 anni della scomparsa di Luigi Tenco, 27 gennaio 1967, e quindi ovviamente il festival così dovrà commemorare con la grazia e l'asciuttezza di Carlo Conti, che comunque... Hai sentito Carlo Conti che parla di social? Quest'anno ha cominciato anche lui un pochino a twittare. Carina la cosa del tutto diventa pazzescamente è più rumoroso. È vero, cioè una scemenza diventa una cosa... Cioè comunque, anche un cantante sconosciuto, ovviamente a Sanremo, un minimo di... dopo no, viene. C'è uno, come si chiama? Nesli, il mio preferito. Io quest'anno punto tutto su Nesli. Sì, c'era anche l'anno scorso. No, ne ha già Clementino. Fatto uno buona. Certo c'era. Che c'è Clementino. C'era anche l'anno scorso. Vabbè, a Clementino ti piaceva l'anno scorso, sì, però. Sì, perché ecco. Rocco. Ecco, comunque, sono allora, secondo me, allora è stata resa nota la lista delle cover che verranno fatte nella serata delle cover. Io già tifo per Paola Turci, che in mezzo a tante... Paola Turci è una cantante. Abbiamo trovato una che gli piace. Oh. Tra tante scelte, cantante, così più o meno così cosa, ha scelto Un'emozione da poco di Anna Oxa, e secondo me è una roba bellissima. Tu cosa canteresti nella serata dei cover? Io canterei i Pazza Inter, Amala, direi. Amala, Pazza Inter, Amala, visto che sono in prepartita. Oppure potrei cantare Picco di ascolti Rovazzi, tu Rovazzi, facendo senti, anche la dub dance. Senti, c'è la musica. Ah, era questa che mi hai messo. Cercavamo, perché l'ho trovata in cartella. Siamo in ringraziamenti, maledetta mi pare primavera, di capire. Maledetta primavera. Beh, quello io sì, primavera. La canterei. Allora, ringraziamenti, sì. Ringraziamo Filippo Aureggi in regia. È stato 14 anni in collegio. Pensate che indisciplinato. E poi fa il severo oggi, sì. Ecco da dove viene la severità in regia. Ringraziamo Matteo Ramelli che ci ha aiutato a mettere insieme questa trasmissione. Linea al GR, alla prossima settimana. Ciao.